Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e bentrovati da Nicoletta, insieme come sempre Obiettivo Salute, per conoscere tutto quello che è utile fare e sapere per stare bene e sentirsi meglio. Oggi partiamo da uno studio tutto italiano, frutto di una collaborazione tra l'Istituto Mario Negri, l'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, il Policlinico di Padova e l'Ospedale di Verona, che ha dimostrato che non c'è un limite di età per donare un rene. Si può donare un rene anche dopo gli 80 anni. Il trapianto è, lo sappiamo, la cura più efficace per le malattie renali gravi, ma non ci sono abbastanza donatori. Un modo per aumentare il numero di trapianti è proprio quello di utilizzare reni di persone anziane, che una volta si scartavano, ed eventualmente trapiantare due reni invece che uno nello stesso ricevente. Obiettivo Salute, il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Una volta ci fermavamo a un certo limite di età. Ci siamo resi conto poi che si sarebbero potuti avere molti più donatori se riuscivamo a prendere reni di persone che avessero una certa età. Naturalmente, come potete immaginare, questi reni non sono perfetti. Allora come si fa per non fare un pessimo servizio ai nostri ammalati? Si fa una biopsia del rene, cioè si prende un pezzettino del rene, lo si guarda al microscopio prima di fare il trapianto e si giudica della qualità di questo rene. Se fosse perfetto ne potremmo fare uno, come abbiamo sempre fatto, ma potrebbe essere un po' malandato. A questo caso ne prendiamo due di questi reni e fanno benissimo il lavoro di uno. Con questo sistema che è stato messo a punto in Italia, adesso abbiamo aumentato di quasi il 20% il numero dei trapianti che si fanno in Italia e in Europa. 22.000 pneumologi a Milano al Congresso Europeo di Pneumologia, dove tra i vari temi si discuterà anche degli effetti delle sigarette elettroniche sulla nostra salute. Il dottor Roberto Boffi, Obiettivo Salute, direttore della pneumologia all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Al Congresso di Pneumologia di Milano verranno presentate le novità più importanti per quanto riguarda la qualità dell'aria, non solo all'aperto, quindi il famigerato smog, ma anche all'interno delle nostre case. E l'Istituto dei Tumori contribuirà presentando anche le ultime novità in termini di inquinamento da sigarette elettroniche di vecchia generazione e di quelle più pericolose, quelle col tabacco riscaldato, che determinano liberazione di sostanze cancerogene, in particolare le aldeidi, che andrebbero quindi assolutamente vietate all'interno dei luoghi pubblici. Se volete saperne di più sugli effetti delle sigarette elettroniche di nuove e vecchie generazioni, ascoltate l'intervista integrale del dottor Boffi sulle pagine di Obiettivo Salute. E per oggi è tutto. Tra poco parte la nostra diretta Facebook. Insieme alla dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa, parliamo della salute e della bellezza dei nostri capelli. Io vi aspetto domani a mezzogiorno in diretta a Obiettivo Salute Weekend. Non mancate.